egli a tempo che viva, stanco son di seguir una distanza oscura in questa suol. Se Dio vuole che il tuo serto questa mia fronte un giorno cinger venga, per la Spagna prepara un re degno di lei, il bravo che la fiamma metto d'ora. Insensato ceder mal guardice, tu fuori di stesso porto a te, a parte a me, e volerebbe il re. Io figlio tu dal cielo sarò tuo servitore, popol si amica e folle corri dal serpe, corri dal serpe disarmato e spiro. Signore, sostegni del mio trono, disarmato e spiro. Ma che? Nessuno! Or ben di voi, io sarò! Nessuno! In questa tale, vi sfuggirò!